Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata a tutti, benvenuti a Magazine 24, appuntamento del sabato e della domenica, come sapete, con i settimanali mensili italiani e stranieri. Allora, innanzitutto una annotazione, forse lo sapete già, se non lo sapete è importante che lo sappiate subito di prima mattina. Oggi, 13 di novembre, è la giornata mondiale della gentilezza. Io l'ho scoperto leggendo Vanity Fair, perché la rubrica di Fiamma Satta, che si chiama Fuoco e Fiamma appunto, chiede nel titolo: potreste essere tutti più gentili, please? Naturalmente appunto mette il per favore per rimarcare la giornata della gentilezza, e comincia proprio così: il 13 novembre è la giornata mondiale della gentilezza. Non fa male ricordare che un gesto cortese, una forma di attenzione o una parola gentile rappresentano un valore sociale, visto che distendono e rasserenano l'animo di chi lo riceve e di chi lo attua. Sono inoltre indizio di intelligenza, riflesso di bellezza, quella interiore. E qui poi Fiamma Satta appunto ricorda che la cortesia come valore è stata ampiamente codificata, ad esempio, dai nostri poeti. L'Orlando Furioso lo cita, Fiamma Satta dice: le cortesie e le audaci imprese io canto. Il termine cortesia proprio si richiama a un ideale di vita cortese, cavalleresco. Ma al di là della letteratura, ci consiglia una cosa molto più recente, una lettura di Elogio della cortesia di Giovanna Axia, e poi anche un consiglio pratico sul tema, sempre di Fiamma Satta. Dice: quando chiamate qualcuno al cellulare, non iniziate subito a inondarlo con quello che avete da dirgli, raccontargli, chiedergli. Prima chiedete sempre: ti sto disturbando? Vuoi che ti richiami in un altro momento? Il consiglio vale per tutti, mamme comprese, scrive sempre Fiamma Satta, che quando chiamano non le fermi più, neanche se sei concentrata a giocare alla roulette russa. E poi un simpatico postscriptum, sempre su Vanity Fair, dice: ma io mi domando se a furia di giornate mondiali ci sia rimasto un giorno dell'anno che è libero. E effettivamente ce lo domandiamo un po' anche noi, però io sono andato a informarmi, siamo andati a informarci insieme con Anita Panizza sui siti per capire che cos'è questa giornata mondiale della gentilezza. Effettivamente fa parte di una iniziativa presa dal World Kindness Movement, cioè movimento mondiale per la gentilezza, che ha deciso appunto, è nato a Tokyo nel 1997, e ha deciso di celebrare proprio il 13 di novembre, ogni anno il 13 di novembre, la giornata mondiale della gentilezza. Si celebrano in questa giornata, prendo sempre dai vari siti, la gioia, i sorrisi, gli abbracci, le buone maniere, la tolleranza, le buone azioni, l'integrazione, la solidarietà, l'amicizia, anche l'amore, la passione e così via, l'emancipazione e la dedizione. E se volete informarvi, questo movimento ha anche un sito, e naturalmente lo trovate con il suo stesso nome, worldkindness.org.sg, perché è appunto asiatico. World Kindness è scritto world come la parola mondo, quindi WORLD, poi KINDNESS.org, kindness, gentilezza in inglese. C'è una versione italiana per chi non è troppo pratico delle lingue. Movimento Italiano della Gentilezza sta a un sito molto più semplice, www.gentilezza.org. quindi se volete fare un atto di cortesia, almeno sapete da quali motivazioni siete mossi in questa giornata. Ora, io non so se ci abbiano pensato a Famiglia Cristiana alla giornata mondiale della gentilezza, però nelle pagine intitolate Come vanno le cose, Michela Gelati sta perfettamente in tema, perché ci avvisa che abbiamo perso le buone maniere, e quindi oggi è l'occasione per recuperarne almeno un pochino. Viviamo, scrive appunto Michela Gelati, in un mondo che ha dimenticato i normali gesti di cortesia, e un libro semiserio racconta la deriva della nostra società. Scrive appunto Michela Gelati: care antiche buone maniere come quelle dei nostri nonni, sempre pronti a scusarsi anche senza aver sbagliato nulla. Allora la buona educazione era l'architrave di una società davvero civile, sia per i ricchi, che dovevano rappresentare modelli positivi di educazione, sia per tutti gli altri, per i quali era segno di dignità. Ma nel corso di due generazioni ci siamo dimenticati tutto, al punto che la maleducazione, i gesti bruschi, le parole urlate la fanno da padrone nelle azioni quotidiane come nella vita pubblica e anzi sono quasi diventati un modello da emulare. Ora non sappiamo se questa analisi possa essere dimostrata. È chiaro che rimpiangiamo, siamo spesso portati a rimpiangere i tempi andati come depositari di una migliore, di una maggiore virtù rispetto ai tempi presenti. Però c'è un libro anche qui che consiglia la Gelati, il libro l'ha scritto Lucinda Holdfort, il libro si chiama Le buone vecchie maniere, la nostalgia per un comportamento civile in un mondo cafone, ed è un libro semiserio sulla importanza della buona educazione dall'antichità ai giorni nostri. La Holdfort è stata sentita appunto da Michela Gelati su Famiglia Cristiana e dice: oggi le libertà individuali sono percepite come la cosa più importante, quindi tutti siamo spinti a credere che le buone maniere siano troppo artificiose e invece sono quasi più importanti della legge, perché anche il proliferare delle leggi è poi un segno che la società non funziona. Allora lo Stato può giocare un grande ruolo nel promuovere l'educazione insieme alla scuola e anche attraverso la pubblicità. C'è da dire, e precisano sempre la Famiglia Cristiana, che la crisi delle buone maniere non riguarda solo il modello occidentale, perché riferisce sempre la Holdfort, nell'ex Jugoslavia, dove il comunismo ha distrutto l'idea di bene comune, il declino e il successo delle civiltà dipendono da un accordo condiviso su valori sociali ed educazione. Quindi siamo in un'era sicuramente più cafona, per usare un termine di moda in questi anni, e allora questo invito al recupero delle buone maniere tramite un libro e tramite anche altre cose che vengono appunto da queste due pagine di Famiglia Cristiana. Io, per farvi una rapida sintesi che vi può essere utile, ripeto, poi specialmente oggi, giornata mondiale della gentilezza, vi segnalo alcuni dei consigli, perché ci avvisano potremmo essere cafoni senza saperlo, e allora ci sono alcune indicazioni pratiche proprio della signora Holdfort: tenere la destra oppure la sinistra, naturalmente a seconda di dove ci si trova, mantenere la parola data soprattutto in fatto di orari, perché arrivare in ritardo è un grave segno di maleducazione, imparare ad aspettare pazientemente il proprio turno dal supermercato al lavoro, dalle situazioni più quotidiane ai contesti più complessi, aiutare i più deboli, obbedire alle leggi, a meno che non si stia partecipando a valide campagne di disobbedienza civile, e poi pensare bene a quel che si fa, perché fare troppe cose insieme è il principale nemico delle buone maniere. Questa, sappiamo, è un'epoca multitasking, forse non ci aiuta molto. Mostrare apprezzamento per i gesti gentili degli altri, provare a imitarli, e infine non perdere l'occasione di rimanersene zitti. Beh, ovviamente questo ultimo consiglio noi siamo un po' in difficoltà a praticarlo, speriamo almeno che quello che vi andiamo a raccontare non sia maleducato, non sia sgarbato. C'è da dire che i tempi presenti sembrano un po' travolgere però la nostra voglia magari di ritorno alle buone maniere. Su 7 che trovate con il Corriere della Sera, da giovedì lo trovate con il Corriere della Sera, ci sono due articoli che riguardano il nostro comportamento, il comportamento di noi genitori nei confronti dei bambini, dal che si apprende che c'è un po' di perdita di equilibrio complessivamente. Il primo articolo è di Ilaria Sacchettoni e parla di bambini messi su Facebook, genitori che caricano sul social network addirittura le ecografie del feto, quindi bambini che ancora devono nascere, e poi le foto del neonato, poi i bambini con il profilo personale, ma naturalmente ancora da lattanti, perciò presumibilmente poco disposti, poco in grado di rispondere ad eventuali corrispondenti del social network, e quindi un'identità digitale che però può essere pericolosa quando i bambini diventano grandi. Perché è chiaro che c'è la gioia dei genitori di far partecipare tutti gli amici che hanno sul social network dell'arrivo del proprio figlio, però si calcola che appunto ci sia un 7% di lattanti che già ha un profilo tutto suo, che la percentuale di bambini sotto i 2 anni presenti su Facebook sia ormai del 68%, quindi una cifra elevatissima. Ma come avverte nell'articolo di Ilaria Sacchettoni, Francesco Pizzetti, il garante della privacy, dice: il bebè caricato e cliccato prima ancora di essere svezzato potrebbe in un futuro poi eccepire, cioè una volta adulto potrebbe legittimamente aspirare alla cancellazione di quella foto in braghette o con il ciuccio e il bavaglino che lo inchioda per sempre al suo ritratto infantile. Quindi un avvertimento a non esagerare in questi comportamenti che poi in futuro possono essere difficili da gestire. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Stavamo parlando di comportamenti poco riflessivi, poco attenti nei confronti dei bambini. Appunto, mettere le foto dei propri figli su Facebook è una cosa che naturalmente fa piacere ai genitori, fa piacere magari ai parenti che possono prendere visione di queste fotografie in un modo molto semplice, ma poi appunto su internet le cose rischiano di restare per l'eternità, magari anche quando il bambino in questione ha cambiato decisamente aspetto o, per dire, svolge una professione, sceglie una professione, un futuro che poco si confà, poco si addice ad alcune pose invece tipiche dei lattanti. Ma non è l'unica libertà, per dir così, che i genitori si prendono con i figli. Basta voltare pagina. Chiara Basso, sempre su 7, che ripeto trovate con il Corriere della Sera, ci informa che a New York ci sono anche dei genitori che battezzano i figli con il nome di Armani, non nel senso del nome di Giorgio, li chiamano proprio Armani di nome, e ci sono stati nel 2009 31 neonati registrati all'anagrafe proprio con il cognome dello stilista. Poi ci sono le Chanel, ci sono i Dior e ci sono anche le bimbe che così sono state chiamate Fanta come l'aranciata, non sappiamo in base a quale predilezione dei genitori. Leggo qualche spunto. Si tratta, certo, se il comportamento di mettere le foto su Facebook è discutibile, questo diciamo potrebbe anche rasentare la cattiveria. Comunque, dalla lista delle preferenze 2009, che è stata resa nota dal Dipartimento Sanitario di New York, risulta che i nomi più diffusi sono Isabella per le bimbe, Jaidin per i bimbi. Poi ci sono i Sofia, Mia, Daniel, Eitan, quindi nomi diciamo abbastanza consueti. Però alla 150esima posizione spunta il nome Armani, quindi ci sono in questo momento 31 bambini molto piccoli che si chiamano come il cognome dello stilista, poi appunto le Chanel, le Dior e poi addirittura i nomi derivati appunto da Fanta o da altri sportivi molto famosi o cantanti molto famosi. New York però non è l'unica città dove avvengono di queste stranezze, perché un piccolo box sempre in questa stessa pagina ci informa che pure in Cina una giovane coppia di Pechino ha scelto per il proprio bambino il simbolo della chiocciolina, sapete, quella che si usa quando diciamo at per indicare la posta elettronica. Non sappiamo poi come questo bambino potrà in futuro comportarsi con le firme e i documenti, ma evidentemente dovrà affrontare il problema oppure trovare una grafia che gli consenta di farlo. Poi ci sono stati 30.000 neonati in Cina che sono stati registrati come Shibo. Questa parola cinese però equivale a Expo, cioè è come se noi a Milano cominciassimo a chiamare i figli Expo in vista appunto del 2015. Poi c'è anche un bambino invece in Gran Bretagna che è stato chiamato Benetton Lewis in ossequio alla passione del padre per la squadra di rugby. E c'era stata un paio d'anni fa in Italia anche una sentenza della Cassazione che aveva fatto un certo rumore, perché si era deciso di impedire a una coppia di genitori di Genova, di battezzare il proprio bambino con il nome di Venerdì. Ecco, questo è decisamente sembrato troppo alla Cassazione, che è intervenuta. Ci sono poi qua e là anche in Italia dei nomi un po' curiosi come Heidi, Carissima, Emo e altro ancora. Anche da noi risulta qualche Dior, risultano anche in Toscana dei Dantesca, dei Brunellesco, dei Rigoletta, dei Lirica, eccetera eccetera. Quindi diciamo, nella giornata della gentilezza, un atto di gentilezza potrebbe essere quello di evitare di imporre a un bambino un nome decisamente troppo ingombrante da portare. Cambiamo completamente argomento perché in queste settimane, almeno in Lombardia e nelle zone della provincia di Milano, si è parlato molto di gomme invernali, perché c'è stata una decisione della provincia, poi corretta, che sembrava indicare un obbligo indiscriminato di calzare le gomme invernali sulle auto, poi in realtà si è precisato che non c'erano sanzioni e quindi insomma questo obbligo è un po' rientrato. Però su altro consumo, uno dei test è proprio dedicato alle gomme invernali e rimandandovi poi alle pagine di Altro Consumo per vedere quali sono le gomme, gli pneumatici che vengono consigliati, però apprendo che già da quando la temperatura scende sotto i 7 gradi gli pneumatici invernali diventano indispensabili. Il test indica i migliori sul mercato. Specifica sempre Altro Consumo che in Italia l'uso di queste gomme invernali non è obbligatorio, è un'alternativa alle catene a bordo soltanto in alcune località in certi periodi dell'anno. Però non dobbiamo pensare che, visto il clima più mite, non ci sia bisogno di pneumatici specifici per il freddo. E tra l'altro un'altra cosa da evitare è quella di mantenere le gomme invernali invece in condizioni estive, cioè strada asciutta e oltre i 20 gradi. Ci sono delle prove che figurano su Altro Consumo, ad esempio negli spazi di frenata con la strada asciutta le gomme invernali a temperatura superiore ai 20 gradi hanno un arresto a 100 km orari superiore di 18 metri, a rovescio con la strada bagnata a temperatura di 10 gradi le gomme invernali fanno guadagnare 3 metri, con la strada coperta poi da neve le gomme non invernali frenano in uno spazio più che doppio rispetto a le gomme estive, frenano in uno spazio più che doppio rispetto a quelle invernali. Poi ancora consigli, indicazioni per l'acquisto di questo tipo di pneumatici. Davvero un salto mortale, ma dalle gomme per la macchina alle gomme da masticare. Per rimandarvi a Il, poi parleremo più diffusamente di Il, che come sapete è il magazine del Sole 24 Ore, nella nostra puntata di domani, domenica. Come sapete Magazine 24 torna sempre alla stessa ora. Vi segnalo soltanto che le gomme da masticare, tanto per stare in tema di gomme, sono una delle cose più inquinanti che riusciamo a produrre, perché leggo da Il, che trovate in vendita con il Sole 24 Ore da venerdì, il chewing gum gettato per terra resta 6 anni sull'asfalto e rimuoverlo ha costi molto molto elevati. Addirittura ci sono delle città in giro per il mondo che hanno deciso di vietare il consumo delle gomme da masticare per evitare anche le spese poi conseguenti alla pulizia delle strade lordate appunto dalle gomme gettate a terra. E con questa segnalazione vi do appuntamento a domani mattina. Magazine 24 ritorna sempre alla stessa ora. Grazie a Filippo Ureggi questa mattina in regia con me, grazie come sempre ad Anita Panizza che mi ha aiutato a preparare questo programma. A domani!